Da tutto ciò risulta che le istruzioni derivanti dalla scienza dello spirito esercitano un'azione profonda e determinante nell'intima natura umana. E le istruzioni che si riferiscono alle quattro qualità citate sono appunto di questo genere. In una forma più o meno diversa, si ritrovano in tutte le concezioni dell'universo che tengono conto del mondo spirituale. I fondatori di tali concezioni non diedero agli uomini quelle istruzioni per virtù di un oscuro sentimento, ma piuttosto perché erano grandi iniziati. Foggiarono le loro istruzioni morali sulla base della conoscenza. Sapevano come queste agiscano sulla natura più delicata dell'uomo e volevano che i loro seguaci sviluppassero gradatamente quella natura più delicata. Vivere nell'osservanza di tali concezioni dell'universo significa lavorare al proprio perfezionamento spirituale. Solo con ciò l'uomo può servire l'intero universo. Perfezionarsi non è affatto egoismo, perché l'uomo imperfetto è anche un servo imperfetto dell'umanità e del mondo. Si serve il tutto tanto meglio quanto più si è perfetto. Qui vale il detto: quando la rosa si fa bella, adorna anche il giardino. I fondatori delle importanti concezioni dell'universo sono perciò i grandi iniziati. Ciò che da loro proviene fluisce nelle anime umane. In tale modo, con l'umanità progredisce l'intero mondo. Gli iniziati hanno lavorato del tutto coscientemente al processo evolutivo dell'umanità. Si comprende il contenuto delle loro indicazioni solo rilevando che erano state tratte dalla conoscenza della natura umana più profonda ed intima. Gli iniziati erano grandi sapienti e dalla loro sapienza hanno coniato gli ideali dell'umanità. L'uomo si avvicina a quelle guide quando si eleva alla loro altezza con la propria evoluzione. Quando il discepolo ha cominciato a sviluppare il corpo eterico nel modo in precedenza descritto, gli si schiude una vita del tutto nuova. Dall'insegnamento occulto deve ricevere al momento giusto i chiarimenti che lo rendano capace di orientarsi in questa nuova vita. Ad esempio, grazie al fiore di loto a 16 petali, vede spiritualmente figure di un mondo superiore. Deve rendersi chiaramente conto della loro diversità, a seconda che siano state provocate da questi o da quegli oggetti o esseri. Anzitutto la sua attenzione può essere richiamata perché egli può esercitare una forte influenza con i propri pensieri e sentimenti sopra una determinata specie di tali figure, mentre non può esercitarla affatto o appena in misura minima su altre. Una specie di quelle figure si trasforma subito, se chi le vede sorgere ha il pensiero «sono belle», e se nel corso dell'osservazione modifica quel pensiero nel «sono utili». Soprattutto le figure che provengono da minerali o da oggetti artificialmente costruiti hanno la peculiarità di modificarsi a seconda di ogni pensiero e di ogni sentimento portati loro incontro da chi le osserva. In misura minore, ciò che avviene nelle figure che derivano da piante e meno ancora da quelle che corrispondono ad animali. Anche queste figure sono mobili e piene di vita, ma la loro mobilità proviene soltanto per una parte dall'influenza dei pensieri e dei sentimenti umani, per l'altra viene determinata da cause su cui l'uomo non ha influenza. Nell'ambito di questo intero mondo di figure sorge anche una specie di forme che sfuggono quasi del tutto all'influenza umana. Il discepolo dell'occultismo può convincersi che queste figure non provengono né da minerali né da oggetti artificiali e neppure da piante o animali. Per arrivare a completa chiarezza, deve osservare le figure delle quali può sapere che sono prodotte dai sentimenti, dagli istinti, dalle passioni e così via di altri uomini. Anche su queste figure si accorge che i suoi pensieri e i suoi sentimenti esercitano ancora qualche influenza, sia pur minima. Nel mondo delle figure rimane sempre un residuo sul quale tale influenza va sempre più diminuendo. Al principio del cammino del discepolo, questo residuo costituisce proprio una gran parte di ciò che egli riesce a vedere. Sulla natura di quel residuo, egli può ora farsi chiarezza soltanto osservando se stesso. Scopre così quali figure sono state prodotte da lui stesso. Ciò che lui stesso fa, vuole, desidera e così via, si esprime in quelle figure. Un istinto che lui risiede, un desiderio che alberga, un proposito che nutre, tutto ciò si manifesta in quelle figure. L'intero suo carattere si esprime in quel mondo di figure. Il discepolo dunque, con i suoi pensieri, i suoi sentimenti coscienti, può esercitare un'influenza su tutte le figure che non emanano da lui stesso. Non ha influenza, invece, su quelle che produce nel mondo superiore col proprio essere, dal momento che le ha create. Da quanto è stato detto, risulta pure che, per la percezione superiore, la vita interiore dell'uomo, i suoi istinti, i suoi desideri, l'intero mondo dei suoi pensieri, si esprime in figure esteriori, proprio come gli altri oggetti e gli altri esseri. Per la conoscenza superiore, il mondo interiore diventa una parte del mondo esterno. Come nel mondo fisico, un uomo che fosse circondato da specchi potrebbe osservare la propria figura fisica, così nel mondo superiore la sua entità animica gli si presenta come un'immagine riflessa.